America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I actually saw a great potential right across the street, to be honest with you, and it was only for the reason that the United Nations was here that that turned out to be such a successful project. So Donald Trump a New York alle Nazioni Unite. Beh, devo dire è stato un debutto come sempre originale, perché il presidente americano arrivando ha subito parlato della sua torre, della Trump Tower, che è davanti alle Nazioni Unite. Dice: ma io non avrei mai potuto costruire una torre di questa bellezza se non avessi avuto davanti il palazzo di vetro. Era chiaramente una grande attrattiva, di grande bellezza e aggiunto e di grande successo economico e finanziario. E dunque dice: così come ho fatto questa meravigliosa torre, adesso devo trasformare le Nazioni Unite e farli grandi come era una volta, anzi devo rinnovarle. Dietro questa sua battuta, c'è chiaramente una presa di posizione molto chiaro. Sentiamo di nuovo Donald Trump. And we affirm our commitment to the United Nations reform, and reform is what we're talking about. Ecco Trump che dice: gli Stati Uniti riaffermano la loro determinazione a riformare le Nazioni Unite. La missione dell'ONU è nata su principi nobili, ma la burocrazia e la cattiva gestione ne limitano il potenziale. Ecco, io non voglio neanche immaginare quel che Trump possa capire o meno della riforma, perché questa riforma delle Nazioni Unite è una necessità di cui si parla da decenni, ma proprio per la sua complessità, perché si tratta, alcuni dicono, di togliere il seggio permanente, per esempio, a Francia e Gran Bretagna. Ma com'è possibile che questi due paesi, che oggi tutto sommato contano poco nel contesto mondiale, abbiano ancora un diritto di veto, mentre l'India, per esempio, grandissimo paese, ormai potenza economica, non ce l'ha, oppure il Giappone, oppure la Germania. Insomma, la riforma ovviamente è necessaria, ma quando si arriva a capire quali sono le determinanti per questa riforma, dopodiché non si va da nessuna parte e si ritiene che sia meglio lasciare le cose come stanno. Io non credo che Donald Trump riuscirà a trovare la chiave di volta per riformare le Nazioni Unite. Di certo lo professa, come giusto che sia. Oggi, fra poco, ci sarà il suo discorso, molti lo attendono per capire che cosa dirà, soprattutto su fronti delicati, per esempio come l'Iran. Di questo parleremo più ampiamente domani, perché avremo anche il materiale, avremo il discorso del presidente americano, avremo gli altri interventi. Oggi vorrei cambiare un pochino invece la tematica e passare a qualche cosa di più leggero, perché l'altra sera, ve l'avevo anticipato, ci sono stati gli Emmy Award. Gli Emmy Award sono i premi che vengono dati ai protagonisti della televisione, sono gli Oscar della televisione. Sentiamo. We have to be honest with ourselves. We know the biggest TV star of the last year is Donald Trump and Alec Baldwin, obviously, you know. Steve Colbert, star della CBS, monologo d'apertura, dice: beh, dobbiamo essere onesti con noi stessi. La vera star televisiva di quest'anno è stata Donald Trump. Ogni show è stato influenzato da Trump in un modo o nell'altro. È vero, e vorrei sottolineare che Steve Colbert in realtà ha rilanciato la sua carriera e il suo programma, che non funzionava tanto bene, proprio grazie a Donald Trump, grazie alle gaffe di questo presidente e grazie a questo suo atteggiamento così scanzonato e aggressivo, che ha restituito vigore al suo programma. Ma gli Emmy Award, secondo me, sono qualcosa di importante al di là del singolo premio. Sentiamo. Sometimes when you're acting, you get a chance to bring a bigger message, and we shone a light on domestic abuse. It is. Ecco, Nicole Kidman ha accettato il premio di miglior attrice per questa miniserie prodotta dalla HBO che racconta il subdolo mondo delle violenze domestiche e devo dire, Kidman era spettacolare, meravigliosa, con un vestito rosso bellissimo, ha parlato molto bene, era davvero in ottima forma, era addirittura commossa quando ha raccontato quanto per lei sia stato importante passare da Hollywood alla televisione, perché questa miniserie racconta la storia di tre amiche e madri che sono alle prese con i piccoli e grandi problemi del giorno per giorno. Madeleine, una delle protagoniste, soffre perché la figlia sta crescendo a fianco della nuova compagna dell'ex marito. Jane, una ragazza madre con un trauma alle spalle da superare, mentre Celeste, che poi è Nicole Kidman, subisce gli abusi del marito. Insomma, è uno spaccato della vita del giorno per giorno e di uno dei problemi più seri con cui si confrontano le donne. Un altro spettacolo che ha vinto l'altra sera è Handmaid's Tale, il racconto distopico distopico prodotto da Hulu ed è basato sul romanzo, appunto, distopico, Il racconto dell'ancella, un racconto del 1985, e di fatto si guarda molto avanti nel futuro, quando la società di Gilead, che una volta erano gli Stati Uniti d'America, è governata da un regime misogino, di nuovo contro le donne, e dunque c'è una denuncia di quanto spesso gli uomini possano avere ancora oggi, nonostante tutto, un atteggiamento di superiorità nei confronti delle donne. Trovo che siano due spettacoli importanti, perché mettono davvero il dito nella piaga, e la piaga lo sappiamo perché la vediamo nella cronaca di ogni giorno, resta appunto quella di una situazione molto spesso di debolezza delle donne, nonostante i progressi compiuti sul fronte del lavoro, sul fronte delle carriere di ogni genere, da quelle universitarie a quelle professionali. Infine, sempre incentrato in questo caso sulla famiglia, però un racconto molto nostalgico, molto struggente, è We Are Us. È la storia di una famiglia che ha una particolarità. Ci sono tre gemelli, due maschi e una femmina, ma uno dei due maschi è un ragazzino di colore. Che cosa è successo? Che i genitori aspettavano questa tripletta, aspettavano tre gemelli, ma al momento del parto uno dei gemelli purtroppo non ce l'ha fatta, è morto. Genitori naturalmente distrutti, il ginecologo dice: ma scusate, ma perché non vi portate a casa un terzo bambino lo stesso? Hanno appena abbandonato qui all'ospedale un bebè nero, un bebè di colore, è delizioso, ma perché non lo prendete? E così lo prendono. E la storia è la storia di questa famiglia straordinariamente unita, che cresce però con questa particolarità di avere un bambino adottato, con tutti i problemi naturalmente del caso, in particolare i problemi del fatto che sia un ragazzo di colore, quindi c'è una denuncia. È una caratteristica tecnica anche questo spettacolo televisivo, è fatto coi flashback, cioè la storia avviene oggi coi ragazzi già cresciuti, sposati e che interagiscono fra di loro, e poi ognuno di loro racconta una storia, rivive il suo passato, e facciamo un balzo e andiamo a vedere che cosa succedeva quando erano piccoli e quando il loro papà adorabile, tra l'altro interpretato da un italo americano che si chiama Milo, anzi Milo, il nome lo pronunciamo Milo, era ancora vivo. Una storia, vi ripeto, struggente. Ecco, questo mondo che cambia della televisione americana, un mondo in cui Netflix ormai ha 100 milioni di abbonati, fa produzioni televisive e anche cinematografiche, in cui Amazon cerca di fare lo stesso, in cui le reti televisive cercano di tenere duro, devo dire, questi tre spettacoli su cui ho puntato, perché danno un po' il polso di come la società americana si sta evolvendo, ci raccontano un'America che cerca di andare avanti, un'America che cerca ancora nelle emozioni e nella forza della famiglia il suo rifugio e comunque la missione più importante da portare avanti in un mondo che cambia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno dei Talking Heads. Non potevamo che scegliere Television Man. Made me. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.